poter capire quel che provo io, dispersi dentro me, frammenti di una remota memoria. Io sento dentro me un grande peso che non va più via, frammenti di ricordi sparsi qua e là. Io sento dentro me un grande peso che non va più via, o forse sono io che ho ricordi vuole che di poter capire quel che provo io, dispersi dentro me, frammenti di una remota memoria. Solo la brina, la brezza e la bruciata mi ricordano di essere vivi, è come essere niente nell'inutilità del mondo, è come essere morto per poi essere dimenticati.